L'insegnamento del regno dei cieli. Parte 1, file audio 7. Capitolo Le cinque fasi del liberatore. Il paragrafo 7. Il desiderio di credere. Vi è una sola condizione per il successo, per la salvezza. Vale a dire che tu non lotti, altrimenti non puoi avanzare. Anche tu devi andare nella stessa direzione. E se ti manca la forza, non è male. Ma se non vuoi andare in questa direzione, questo non lo posso sopportare e neppure Yeshua poteva. Ricordi la storia di Yeshua? Chi erano coloro che furono salvati? Chi erano coloro che furono guariti? Solo chi aveva fede in lui. Qualcuno andò da lui e gli chiese: Mia figlia è molto malata, di soltanto una parola e lei guarirà. Questa persona aveva fede in Yeshua. E la risposta di Yeshua fu: La tua fede ti ha salvato. Soltanto quando Yeshua vedeva che qualcuno aveva fede in lui, era pronto a guarirlo. Ma nella sua città non poteva fare miracoli. Perché? A causa della loro mancanza di fede. Nessun profeta nella sua città. Significa che chi non ha fede non può raggiungere Keter. E se non si può arrivare a Keter, non si può neppure ottenere il Gmar Tikkun, la correzione completa. Lo capisci? Keter e Malchut sono connessi sempre l'uno all'altro. Quando vai al tuo Keter, rendendo il tuo aviyut più sottile significa che raggiungi Keter con la tua mano. Quello che porti sopra puoi pure portarlo sotto. È la stessa via. Rendendo il tuo aviyut più sottile ti porti sopra, cioè attraversi i tuoi chilim fino alla cima. E una volta arrivato in cima, puoi ritornare sempre all'inizio. Malchut è sempre connessa con Keter. Puoi vedere questo come un'interazione. Quello che viene da uno ti porta all'altro. Ma soprattutto è necessaria fede. Non pensare che se ti manca fede sei perduto. Ricorda le parole di Yeshua ai suoi apostoli quando loro gli dissero: Abbiamo visto qualcuno che agiva nel tuo nome. non dovremmo impedirglielo. Non può farlo perché non è uno di noi. E Yeshua rispose: lasciatelo fare, perché chi non è contro di me è contro, e chi non è contro di me è con me. Vale a dire, chi non è contro la mia fede, gradualmente si avvicinerà alla fede stessa. Perciò una mancanza di fede non è così male, ma è molto diverso se non si vuole credere. Allora, non si è parte di questo. Se noto che qualcuno non vuole credere, prima presto molta attenzione, ma quando me ne accorgo tramite email, eccetera, sono molto diretto. Se qualcuno sta studiando con noi per molti anni e si comporta in modo strano, vale a dire le differenze in qualità diventano enormi, e non vuole superare il gap, quando ancora lotta, arriva il momento che dico: qui termina la nostra relazione. Non sei più il benvenuto a partecipare alle nostre lezioni sullo Zohar ad Amsterdam. Puoi restare come studente esterno, assumendo che lavorerai su te stesso. Non abbiamo bisogno di anime morte. Poi di nuovo ricevo email piene di emozioni e cose terribili. Vedo che è completamente privo di fede, privo di desiderio di credere. Lavora con la sua testa e quando sente la parola Yeshua si accende in lui la rabbia. Questo è molto comune tra certe persone, perché sono cresciute così. Loro non se ne accorgono. Ma quando sentono la parola Yeshua, accadono cose terribili. Perché? Come funziona? La parola Yeshua, la forza di Yeshua nutre in loro le forze impure. Tale gente può sopportare molto, ma non sentire la parola Yeshua. E Yeshua è il livello più alto del divino. Questa persona raggiunge i suoi livelli più bassi in lui e non ha alcun controllo. Non riesce a controllare la sua reazione, sebbene pensi che appartenga al nostro studio interno. Non importa da quanto tempo studi Kabbalah, chi entra oggi e prova a credere, è uno di noi e sarà salvato. Ma per chi studia Kabbalah da anni e ancora non ha fede, non c'è nulla da fare. Prova a credere. Prova ad andare oltre la tua ragione. Solo allora puoi venire a contatto con il tuo Keter. Non c'è altro modo. E in Keter si trova il creatore. Solo quando vai oltre la ragione puoi venire al creatore. Per favore, leggi attentamente queste parole. Nessuna persona può venire al Creatore, non importa quante preghiere reciti. Non può venire al Creatore se non andando prima al suo Kliketer. Che significa? Se tu stai pregando e pensi di parlare con il Creatore, ma ignori Yeshua, non ha alcun valore. Nessuna preghiera può arrivare al Creatore se non ha passato il nome di Yeshua, la Kliketer. La tua preghiera deve arrivare prima a Yeshua, solamente allora può raggiungere il Creatore. Quando preghi direttamente a Hashem, è sempre buono, è giusto, perché tramite questo dai la tua preghiera a Yeshua. Ma è meglio dire la tua preghiera nel nome di Yeshua. Sempre nel nome di Yeshua, poi puoi arrivare al Creatore. Se fai altrimenti resta immaginazione. Tutte le preghiere dei miei fratelli e sorelle sono assolutamente senza valore. Sono solo psicologici. Loro non vogliono vedere e credere che il Padre è solo dentro Yeshua. Naturalmente questo può essere molto difficile per te e non c'è nulla di male in questo. Gradualmente lo supererai in te stesso. E allora ti sarà rivelato. Ma quando provi resistenza, quando ancora lotti perché non vuoi credere, allora non ha senso. Sii certo che non mi occupo della divulgazione del cristianesimo. Le scintille di luce sono sparse per tutto l'universo. Io parlo solo dell'insegnamento di Hashem, di Kabbalah, della salvezza totale. Non c'è altro modo per chi vuole arrivare alla sua vera destinazione che passare l'ultimo punto, la cruna dell'ago, vale a dire il Kliketer. Questo è il posto più sottile. Il posto di Yeshua è al suo interno, è inclusa l'altra luce. L'alta luce. Solo allora puoi arrivare ad Hashem. Hashem. Nome significa Kli, di, dentro, di te. Il nome, nel nome di Yeshua, il nostro Mashiach, arriverai al Creatore. È una tua decisione di lavorare in questo modo. Ma allo stesso tempo devi sapere che se fai altrimenti non riceverai aiuto. Un paio di giorni fa ho visto in televisione come i corpi di un rabbino e sua moglie, che furono uccisi a Mumbai, furono portati dall'India a Israele. Erano avvolti in lenzuoli bianchi e poi messi nelle bare. Tutto questo era fatto in un ambiente molto ortodosso, con la più nobile cerimonia, accompagnata da alcune persone del governo. Un importante rabbino fece un discorso ed io udii le sue parole. Io conosco tutte le loro preghiere, le quali ho studiato per molti anni. Ho ascoltato il sermone di questo solenne rabbino. Con una bella barba bianca, appariva così divino, ma non sentiva alcuna divinità. Mi sembrava come una bambola vuota. Le parole che diceva erano solo cose che aveva imparato una volta. E al momento giusto cambiò il tono di voce così da commuovere la platea. Citava pure Lari, perché tutti loro sanno che Lari era una persona divina. Ma è questa una preghiera? Salirà fino al Creatore? In nessun modo. Imparano solo dei trucchi di magia. È solo un gioco religioso. Loro sanno esattamente cosa dire, ma viene solo dalle labbra. È fuori. E questa non è una preghiera. Prima devi venire a Yeshua, altrimenti non puoi arrivare al Creatore. Puoi pregare per ore, l'intera nazione può pregare per giorni e notti intere. Persino un anno intero. Ma non andrà al Creatore. Non arriverà al Creatore. C'è solo un alto Keter Yeshua. Lui una volta disse: mi è dato tramite il Padre mio, e nessuno può andare al Padre che per mezzo di me. Questo è un fatto. Ma tu ci devi arrivare con l'esperienza, devi sapere cosa sperimentare, non solo con le parole. Prima di arrivare alla tua destinazione finale, devi attraversare l'ultima stazione e questa è l'accettazione di Yeshua. Quanto lontano andrà la tua preghiera? Non importa se non puoi fare questo per nulla. Se ancora lotti, se non vuoi farlo, è qualcosa di diverso. È possibile che alcuni di voi abbiano problemi con quello che stanno leggendo. ma quando vi è il desiderio di superarli, vi sarà data la forza e un giorno li supererete. Arriverà? E un giorno li supererete, arriverà il giorno in cui vi sarà data fede. Per voi non c'è alcun problema a restare. Che significa fede? Non la fede di un bambino, non la fede che tutti i tuoi peccati saranno perdonati. Questa è una credenza molto ingenua. La vera fede è che ti rendi libero così che dall'alto ti possano dare fede. Fede significa che crei in mano e la porti sopra. Questa è la vera fede, portare man sopra a Keter. È la via alla luce. Questa è la vera fede. È facile vedere cosa sia la fede e cosa non sia. Sviluppa dentro di te una sorta di rilevatore di fede, un certo criterio, o anche meglio un rilevatore di non fede. Allora anche tu potrai usare le parole del rabbino che parlava durante la cerimonia, che erano vuote, belle per le masse, solo per l'essere esterno, ma all'interno non contenevano nulla. Potevo provare che le parole non andavano direttamente a Hashem. Ari aveva il dono di vedere se qualcuno diceva la verità o no. Non pensare che questo sia un dono eccezionale. Anche tu puoi impararlo. Non pensare che devi essere in isolamento, che devi essere un santo, perché puoi impararlo. Allora puoi vedere che dall'interno c'è una sorta di colonna di luce che arriva fino a sopra la testa, proprio come il cavo. Questa è la via della luce e naturalmente qui puoi creare la connessione dal basso all'alto. Dall'alto può venire a te al basso. Tu devi solo renderti ricettivo. La via dall'alto al basso è sempre presente. Ma dal basso. In un certo senso abbiamo chiuso questo cancello. Questo è quello che abbiamo fatto, ma devi sapere che dall'alto la via all'essere umano era, è e sarà sempre lì. Devi solo aprire questo cancello. E quando non lotti, apri il tuo cancello. Questo è un piccolo gruppo qui ad Amsterdam, ma anche se è un piccolo gruppo, ognuno di noi deve puntare nella stessa direzione. Ogni volta lo Zohar ci porta nuove rivelazioni. In In ogni lezione, il cancello, che una volta era chiuso, si apre un po'. Solo con la tua cooperazione questo può accadere. Non c'è altro modo. Quando lo ti e non vuoi, devi lasciare il corso. Gradualmente andremo sempre più in profondità e tutti noi arriveremo a un'esperienza profonda. Una via meravigliosa si apre per noi. Ognuno di voi, tutti personalmente, possono arrivare alla loro esperienza del proprio Guartigun, della propria correzione completa. Questo è il nostro obiettivo che ognuno di noi può e raggiungerà il Gmartikun come un individuo e come un gruppo. In un certo senso è un processo assolutamente individuale e allo stesso tempo in modo indiretto può verificarsi come un gruppo. Ma dobbiamo lavorare assieme. Non accadrà se qualcuno rema contro. Durante le lezioni tutti noi abbiamo essere in resa totale. E quando la lezione è finita, ognuno di noi deve lavorare su se stesso. Tutti noi dobbiamo remare nella stessa direzione come classe, ma allo stesso modo restare un individuo. Non pensare che lo Zohar sia difficile, che non puoi impararlo. Solo se non ha fede è difficile. È lo stesso che sopravvivere in questo mondo senza fede è quasi impossibile. Per una persona senza fede la vita è pesante e molto tragica. Sei tu a sperimentare la vita come semplice o pesante? Dipende tutto da quanta fede tu abbia. E la fede al di sotto della ragione vale a dire: fai tutto con il tuo intelletto o puoi andare oltre la ragione. Quest'ultima non è facile. Prima devi attraversare le tue forze. E in questo, naturalmente, hai bisogno del tuo intelletto. Andare oltre la ragione non significa che non usi il tuo intelletto, ne hai bisogno. Ma la bilancia non si sposta dall'altro lato, cioè tu non fai tutto con il tuo intelletto. Sebbene l'intelletto ci dica stai con me, arriva il momento che devi andare oltre la ragione. Per esempio, osserva il Talmud. È un pezzo di lavoro splendido. Ma se resti nel Talmud, non ti aiuta. Il nostro cervello è geniale, tutta la logica e la ragione, ma senza fede è nulla. Il Talmud era meraviglioso. Non dare la colpa al Talmud. È un lavoro grande. Ma se lo impari solo con la tua testa, non ti aiuta. Che cosa significa con la tua testa? Se resti all'interno della tua testa, del tuo intelletto, il creatore non ti può sentire. Perché? Perché no? Dentro la ragione significa che resti nei Kilim di Kabbalah. I vasi della sola ricezione. Hashem è il desiderio assoluto di dare. Come puoi connetterti con Hashem? Solo portandoti in conformità con le sue qualità. Cioè anche tu devi dare. Come puoi dare a Hashem? C'è qualcosa che puoi dare a lui. Ha bisogno di qualcosa? Assolutamente no. Non puoi dare nulla. L'unica cosa che puoi fare è rendere il tuo aviut più sottile. Perché il desiderio di ricezione non può scomparire, puoi solo renderlo più sottile. Solo allora, in quel momento, puoi arrivare a Keter e ricevere la luce. Ma non puoi restare in Keter. È solo per un momento. Ricevi un po' di salvezza e questo ti dà del sollievo, ma dopo devi andare oltre. Adesso conosci la via verso l'alto. Sei arrivato dal basso all'alto fino al Kli Keter. Perciò puoi farlo un'altra volta. Quando hai più forza, puoi ritornare dal Kli Keter ai Kelim inferiori, allora ricevi la luce Ruach. Prima ricevi la luce Ruach, vale a dire devi andare oltre, ma quando continui sei sempre connesso al Kli Keter. Cioè, sei sempre connesso con Yeshua. E questo è un messaggio molto importante. Sappi che puoi sempre connetterti con Keter. Non implorare quando qualcosa non va nella maniera che tu vuoi. Non urlare, Hashem, Hashem, aiutami, perché è inutile. Connetti te stesso con Yeshua che ti aiuterà. Ho già mandato mio figlio e lui ha dato il messaggio. Perché non impari da lui? Io ho dato tutto. Impara da lui. Hashem stesso dice, perché stai venendo a me? Chiaro? Impara da ciò che lui ha detto. Cominciamo il paragrafo 8. Non creare immagini, ma sperimenta Yeshua. Come sai, già tu hai cinque sfirot. Non fare connessioni con alcun tipo di immagini o simboli che tu possa avere. I cristiani hanno ricevuto dei simboli, per esempio la croce che è data a loro. Poiché ti occupi di Kabbalah, non hai più bisogno di simboli, di rituali. Ma naturalmente ognuno è libero di vedere quello che vuole. Se sei cristiano e credi nella crocifissione, naturalmente sei libero di farlo, ma allo stesso tempo devi sapere che esiste l'albero della vita, i cinque sfirot, e non c'è nient'altro. E come sai già, questi cinque sfirot sono in essenza 10, perché il quarto sfirà ha sei sfirot dentro di sé. 5 o 10 è lo stesso. Perciò quando rendi il tuo aviut più sottile e arrivi a Keter, ogni volta ti connetti con il Salvatore. Qualunque cosa provi, problemi piccoli o grossi, prova a portare te stesso a un punto di serenità. Prima provaci indipendentemente e non implorare da subito Hashem. Non è questa l'intenzione. Questo significa che devi camminare su due piedi qui in questo mondo. Mentre cammini qui su questa terra e vivi la tua vita, resta connesso con Keter, ma non chiedere immediatamente aiuto. È molto importante vivere la propria vita entro se stessi, all'interno delle proprie forze. Quando proverai le tue forze, probabilmente ti sentirai miserabile. Perché entro il tuo cli vi è Malchut, la quale è molto pesante. Che cosa puoi fare? Porta questa forza in alto, e per farlo rendi il tuo desiderio più sottile. Prima vai al cli di Zeiran Pin e poi in quello superiore e nuovamente più in alto e così via. Quando lo fai con le tue forze, provi sollievo e pace. Non è meraviglioso? Supponiamo che non ti senta sollevato. È possibile che tu debba lavorare più duramente per rendere il tuo desiderio più sottile. E quando arrivi al punto che non riesci a fare più nulla, allora sei arrivato a Yeshua e l'unica cosa che puoi fare è andare oltre la ragione. Ma chi è Yeshua cui mi connetto, non la persona sulla croce. Ci si crea vari tipi di immagini di questa persona. Se ancora immagini una persona in carne ed ossa, quando pensi a Yeshua, allora sei in errore. Dimentica o cambia questa immagine. Quando vedi Yeshua come una persona che visse qui sulla terra, quando credi ancora alla storia che ti hanno raccontato una volta, non lavori con i tuoi chili. Se resti in questa fase, sei come un bambino. E con tutto il rispetto, non puoi vedere Yeshua. Non puoi vedere chi fu, chi è e chi sarà in verità. Un buon cristiano dice: più sono connesso con il mio credo in Yeshua, più vuoto sento nel mio cuore. Questo è quello che disse Madre Teresa quando vinse il premio Nobel. La gente pensava che fosse così divina. Loro credettero che Madre Teresa potesse vedere e parlare con Yeshua, tête à tête. Ma, in fin di vita, lei disse: no, provo soltanto un vuoto. Lei fu molto onesta. Era un grande segno di quanto profonda fosse la sua fede. Ricordatelo, così non agirai e penserai a Yeshua come a una persona in carne ed ossa. Il Nuovo Testamento è un'aggiunta bellissima fatta dai cristiani. Non proviene dagli ebrei, non viene da Yeshua. Lasciami citare Yeshua. Dopo 3 giorni risorgerò dai morti e apparirò a voi. Yeshua accompagnò i cristiani, ma non come una persona in carne e ossa. L'intero significato è connettere te stesso con Yeshua. Non soltanto in maniera spirituale o fisica, ma ancor di più. Se ti connetti con Yeshua, allora provi che sei un essere in carne e ossa, che vive qui nell'ora. Vi è una sensazione di divino dentro di te. Grazie alla connessione con Yeshua, dentro di te attrae la luce nel tuo corpo intero. In un certo senso provi il Creatore dentro di te. O in altre parole, Yeshua diventa il corpo dentro di te. Vale a dire, il tuo corpo sente la luce che hai attirato tramite la tua connessione con Yeshua. Ogni cellula si riempie all'ora della luce di Hashem. Così come Yeshua fu durante la sua vita, così è per sempre. Loro spezzarono solo il corpo fisico di Yeshua. Solo quella parte fu rimossa dalla terra. Lui viveva dentro un corpo. Questo è vero. Come? Quando il tempo verrà, lo impareremo. Per esempio, impareremo dallo Zohar a riguardo della resurrezione del profeta Elia. Adesso non è il momento giusto, per tutto c'è il momento adatto. Non è necessario avere fretta perché altrimenti cadremmo nella filosofia. Non ci sarebbe comprensione alcuna. Ma quando arriverà il momento giusto, lo impareremo certamente, sperimenteremo come Elia fu portato via, vivo, nei cieli, così come accade a Yeshua. Gradualmente lo impareremo durante le lezioni sullo Zohar e poi ci sarà dato dal alto. Ho iniziato questa lezione dicendo di non creare immagini di Yeshua perché ogni immagine è materiale. Non può salvarti. Nessuna croce, né icona ha alcun valore spirituale. Ovviamente possono avere valore nel mondo materiale. Può essere un pezzo meraviglioso di artigianato. Ma questo è tutto. Lo stesso vale per i riti che si fanno, per esempio, il rito della croce. O l'osservare la croce, fatta di un certo materiale, è solo un pezzo di legno o metallo, o qualunque altro materiale. Ricordalo, quello che vedi con i tuoi occhi non è divino. Ma quando vieni in verità a Yeshua, sarai connesso con Yeshua, vale a dire avrai fede e sincerità assoluta, e vivrai secondo la sua parola. In un certo senso, riceverai un nuovo corpo spirituale. Quando questo accade, provi dei cambiamenti riguardo alla rabbia, il male e tutte le altre cose che prima sembravano così terribili e ti separavano. Ora puoi sentire come la luce entra dentro di te. Quando questo accade, la rabbia si trasforma nella bontà della luce. E tutto questo accade quando ti connetti con Yeshua. Grazie a questa connessione, puoi sentirti intero e completo con Yeshua. Ma sei sempre nel tuo corpo. Quello che provi è dentro i tuoi kilim. Entro i tuoi kilim puoi sentirti uno con Yeshua. questo è diverso dal credere nella storia che ti hanno raccontato su Yeshua. Così diverso dalle storie che ti hanno detto Yeshua fece questo e fece quello. Per esempio, l'Apostolo Paolo descrive come lui vide Yeshua dopo la sua morte, dopo la morte di Yeshua. È che Yeshua gli disse: seguimi, seguimi. Con il suo essere esterno, lui vide Yeshua. Ricorda, Yeshua è una forza. È solo come una forza puoi provarlo. E non come un essere in carne ed ossa. Devi sapere che persino con la più fervida immaginazione, nessun santo può essere visto qui in carne e ossa. Naturalmente è una storia bellissima e la gente ama le storie, le favole. E i fondatori del cristianesimo lo sapevano. Questo era il modo di mostrarla alla borghesia. Non per corromperli, ma perché per loro era necessario e abbastanza. Per esempio, quando devi spiegare qualcosa a un bambino, prima gli dai una figura. E qui vi era la figura di Yeshua, sebbene lui non avesse immagini. E in così tante chiese si vedono descrizioni di Yeshua. E tutte sono così diverse. L'immagine dipende da come si vuole vedere Yeshua. Cattolico, protestante, eccetera. Tutti vogliono vedere l'immagine di loro Yeshua. Capisci? È una statua. Ho un'immagine, invece della forza dell'Alto Keter. E in Africa hanno un'altra immagine di Yeshua, una statua che è adatta alla loro cultura, alla loro pelle. È solo un tipo di civiltà. Una statua o figura di Yeshua è contro Yeshua. Se lui fosse qui, disapproverebbe, perché è idolatria. Lui sarebbe disgustato di questo. E allo stesso tempo dico che non vi è nulla di male. Va bene per la massa, per chi non è maturo, per chi non è diventato un adulto spirituale. Quando si diventa adulti spiritualmente, non si ha bisogno di alcuna immagine di Yeshua in questo mondo. Ascolto quello che Madre Teresa disse in fin di vita. Lei era matura, aveva la connessione vera con Yeshua. Sembra. Che cosa disse in fin di vita? Provo solo un vuoto. Questo è veramente un buon messaggio per i cristiani. Non c'è immagine di Yeshua, che puoi salvarti. Perciò connetti te stesso con la forza di Yeshua. Senti la forza di Yeshua dentro di te. Dall'esterno non puoi sentirlo. Solo dall'interno puoi sentire il tuo Keter e nient'altro. Questo è Yeshua in ogni condizione. Smettila di guardare e cercare Yeshua fuori di te, per esempio sulla croce. Diventa maturo. Solo un atteggiamento maturo ti aiuterà. Connetti te stesso con la forza di Yeshua, questo è un atteggiamento maturo. E questa esperienza ti salverà.